24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:20 minuti, buongiorno cari ascoltatori, in diretta anche oggi fino alle 9 con il nostro Paolo Corleoni in regia che ci guarda e dà il suo cenno di assenso. Allora si può iniziare, siamo in diretta anche su Facebook con la nostra pagina 24 mattino. E di cosa parleremo nel nostro sondaggio di oggi? Torniamo a parlare del calcio scommesse, quello che vi chiediamo oggi: secondo voi è giusto che paghino le società per eventuali illeciti commessi dai calciatori? Si chiama responsabilità oggettiva, contro la quale si scagliano i presidenti ora delle Serie A, i presidenti delle squadre citate, coinvolte, che dicono: se ha sbagliato qualcuno paghi lui, ma non si capisce perché debbano pagare la società e con questo anche tutti i tifosi. Di questo parliamo con questo taglio. Voi votate su radio24.it il nostro sondaggio ed ora andiamo a scoprire cosa ci propongono i giornali in edicola. In primo piano. Allora vediamo le aperture. Il Sole 24 Ore apre sui bonus poteri a Banca Italia. Queste tra le modifiche al decreto sviluppo. Si analizza tutte le varie modifiche al decreto sviluppo presentate e oggi ci sarà una giornata importante. Sono 1500 gli emendamenti proposti alla Camera per il decreto sviluppo, tra cui alcune tematiche che ritornano e le vedremo. Poi ci sono una marea di aperture sul caso Santoro. Il caso Santoro scuote la TV per il Corriere della Sera. Per il giornale azzerato anno zero, per il Fatto Quotidiano la RAI ce l'ha fatta, sparisce anno zero, per Libero ora Santoro è gratis dalla RAI alla 7, per il Manifesto lui, lei, l'altro, lei è anche il nome del direttore generale della RAI. E poi le altre aperture per Repubblica, Napolitano al referendum voterò, La Stampa, Lega, PDL avanti fino al 2013. Queste le varie aperture dei giornali. Anche per l'Unità c'è la foto di Napolitano: io vado a votare. C'è una foto di Napolitano che mette una scheda elettorale nelle urne. Allora, da cosa voglio partire come le due segnalazioni? La prima è uno studio del Censis che trova ampio risalto sulla Stampa, pagina 14 e 15, uno studio che certifica ciò che tutti possiamo verificare e constatare quotidianamente nelle nostre città: regole e tabù non fanno per noi. L'SOS del Censis, che ha fatto una ricerca, gli italiani sono sempre più narcisi, sempre più aggressivi, non gestiscono le pulsioni ed è un boom di droghe e farmaci. Ebbene, in questo studio, dal titolo La crescente sregolazione delle pulsioni, presentato ieri a Roma, certifica con dei dati impietosi, per esempio, alcune cifre. Per l'85% degli italiani il criterio che governa l'agire di noi tutti è questo: ognuno è arbitro dei propri comportamenti. Tradotto, decido io che cosa è meglio fare. Certo, ci sono le regole, ma possono essere aggirate. Oppure, per il 44,8% degli italiani, per divertirsi non si può fare a meno di eccedere e trasgredire. Per il 63,5% degli italiani la morale sessuale lascia il tempo che trova, e questa percentuale sale per i giovani all'80%. Insomma, siamo un popolo di trasgressivi, di aggressivi, sempre più narcisi. Questo ha certificato il Censis con il direttore generale Giuseppe Roma, che dice: è sempre stato un popolo, un paese, quello degli italiani, di individualisti. Questa la prima segnalazione. La seconda la troviamo sul Corriere della Sera, è un racconto di Fiorenza Sarzanini che trova spazio anche in prima pagina e che ridà spazio ai misteri sulla fine di Ettore Majorana. Ettore Majorana, grande scienziato italiano che scomparve a 32 anni nel 1938, su di lui sono stati scritti libri, sono stati fatti film, si è detto che si è suicidato, in realtà forse no. Eccolo qui, riappare questo mistero e ricompare un'inchiesta. È il volto di Majorana, 10 punti sono uguali. È stata scovata una foto in Argentina In quella foto dell'Argentina c'è il vero volto di Majorana, secondo alcune testimonianze, secondo un'inchiesta che è stata riaperta a questo punto dalla Procura di Roma dopo 73 anni dalla scomparsa, perché è stata trovata una foto e l'analisi col computer dei RIS, dei carabinieri, su uno scatto trovato nel 1955, che il Corriere riproduce a pagina 31, fa vedere che ci sono fortissime compatibilità somatiche, fisiognomiche, tra questa foto e la foto di un Majorana giovane, anche il volto del padre. E dunque Fiorenza Sarzanini racconta come lo scienziato italiano scomparso nel 38 in modo misterioso durante un viaggio ora ha fatto riaprire ai magistrati di Roma un fascicolo, perché ci sono 10 coincidenze in una foto trovata tra l'immagine acquisita 3 anni fa e quelle del fisico siciliano, e dunque si riapre il mistero della fine di Ettore Majorana. Oggi il Corriere ne parla a pagina 31. In primo piano. Allora, eccoci qua con la lettura dei giornali. La politica, ieri si è registrato questo vertice ad Arcore tra Bossi, Tremonti e il premier Berlusconi. I giornali si concentrano su questo. La versione, quella ufficiale, quella che ha avuto il volto del neo coordinatore del PDL Alfano, che ha detto ai microfoni si va avanti fino al 2013. L'alleanza tra Lega e PDL è solida. E questo, diciamo, è quello che è avvenuto, diciamo, di facciata, le dichiarazioni ufficiali. Tutti i giornali si concentrano su quello che sarebbe sicuramente intercorsa, cioè la tensione anche tra Tremonti e Cavaliere. Così titola, per esempio, il Corriere a pagina 3, tra Tremonti e Cavaliere tensione, ora si punta sulla riduzione dei deputati. Nessuna parola, scrive Marco Galluzzo, sul fisco, sulla riforma che il capo del governo chiede a Giulio Tremonti da almeno un anno e di cui non si vede ancora traccia. Di certo non si sono esaminate bozze, non si è scritta una riga su questo argomento, non si è rimasti a parlare di numeri e detrazioni, di recupero dell'evasione per finanziare il quoziente familiare e lasciare nelle tasche delle famiglie più reddito. Secondo il Corriere, però, su cosa punta il PDL per rilanciare l'azione di governo e presentarsi tra 2 anni alle elezioni è la riduzione dei parlamentari. Questo già in questa legislatura, una riforma di legge costituzionale, questa potrebbe essere una delle strade scelte dalla maggioranza per risalire nel consenso degli italiani. La Lega invece ha chiesto che cosa e pare abbia ottenuto, è tornata a battere sulla questione del trasferimento dei ministeri al nord. Non si riesce a capire come si concentrerà, forse l'apertura di qualche ufficio decentrato, ma anche il Foglio in prima pagina nel commento dal titolo "Il Cavaliere accontenta Bossi sui ministeri, Tremonti delude il Cavaliere sul fisco". Così il Foglio legge il vertice che c'è stato. In un clima di tensione tra Berlusconi e Tremonti, Bossi e i vertici della Lega hanno incontrato il premier ad Arcore. Il vertice è andato bene, spiega Alfano. Quando Bossi ha fatto accenno alle elezioni anticipate al 2012, Berlusconi, secondo il Foglio, ha risposto con un sorriso: vedrai che governeremo fino alla fine della legislatura. Ed eccolo qui, la delegazione leghista ha ottenuto il sì al decentramento dei ministeri al nord. Si tratterà ora di trovare una formula, che sia lo spostamento di alcuni dipartimenti o l'apertura di uffici di rappresentanza. Secondo qualcun altro, secondo il Corriere anche Repubblica, Bossi avrebbe ottenuto anche il via libera al trasferimento della Consob a Milano. Mentre rimane la tensione tra Cavaliere e Tremonti sulla questione tasse. Sulle tasse trova una soluzione, avrebbe detto Berlusconi a Tremonti, secondo quanto riporta Francesco Bei su Repubblica nel retroscena pagina 3. Mi rendo conto dei tuoi vincoli, ma dobbiamo fare qualcosa, Giulio. E Tremonti avrebbe risposto: i vincoli non li ho stabiliti io, è tua la firma sul piano nazionale di riforme che abbiamo portato a Bruxelles. I mercati non ci perdonerebbero un passo falso, il giudizio sui nostri conti non lo dà Bruxelles, lo danno tutti i giorni le agenzie di rating che leggono i giornali molto attentamente. Tant'è vero che ieri Berlusconi è stato intercettato a Siena in serata e avrebbe detto questo: è andato tutto bene tranne che per Tremonti. Questo sarebbe il commento di Berlusconi del vertice. E per il secolo XIX, a pagina 2, la tensione è questa: muro di Giulio contro Silvio. Il tema è sempre quello, la riforma fiscale richiesta da Berlusconi e Tremonti che dice non ci sono i soldi, vedremo forse a settembre. Chi ha partecipato al vertice riferisce, sono tutti retroscena, virgolettati, riferisce il secolo XIX, Berlusconi non sa come uscirne, è come un pugile suonato e noi non intendiamo morire con lui. E anche questa frase di Berlusconi, la verità è che Bossi ha puntato su un altro cavallo, Tremonti e la Lega mi vogliono preparare la bara. Vabbè, se vi accontentate, questi sono tutti retroscena, per cui presi con le molle, vanno presi come tali. Poi c'è la versione invece ufficiale delle dichiarazioni davanti ai microfoni. Sta di fatto che l'altra notizia politica del giorno certamente è quella del referendum. Tra l'altro vi posso annunciare che da domani il Sole 24 Ore farà una serie di pagine anche didascaliche per cercare di capire di che cosa si tratta, cosa sono questi quattro quesiti, se rimarranno quattro, perché oggi, tra oggi e domani, per la verità, la Corte Costituzionale dovrà decidere se accettare anche il referendum sul nucleare in maniera definitiva, perché c'è un ricorso del governo che pende su questo. Per la verità il presidente, neo presidente della Corte Costituzionale, ha già detto a titolo personale: noi non possiamo fermare questa consultazione, però certo deciderà la Corte Costituzionale, i 15 giudici. E tra l'altro vi annuncio, alle 8:20 parleremo di questo nell'intervista con il presidente ex della Corte Costituzionale, Valerio Onida. Intanto Napolitano ha fatto sapere, il capo dello Stato: farò il mio dovere personale, come racconta Donatella Stasio a pagina 11 del Sole, e andrò a votare, ma è una scelta a titolo personale. Certo, ci si chiede chi va a votare, chi non va a votare. Pare che in realtà i ministri alla fine, la maggior parte, saranno tutti compatti. Oggi il Corriere riepiloga sia Frattini che La Russa, Sacconi, Giorgia Meloni, Stefania Prestigiacomo, che qualcuno dava in dubbio come possibile antinuclearista, Claudio Scajola. Vengono riassunti tutti le posizioni dei ministri, che dicono di fatto, con sfumature diverse, questi referendum sono stati politicizzati, non vanno bene. Sacconi addirittura dice: è molto tempo che non vado a votare, da anni, a nessun referendum. Quindi il governo da questo punto di vista è compatto nel non votare referendum. C'è un endorsement che voglio registrare, anche perché è particolare, no? È quello di Vasco Rossi, la rock star più celebre in Italia, che a sorpresa, e il giornale infatti lo fa notare, dice: io sono favorevole al nucleare. E magari ci si sarebbe aspettato dai fan di Vasco Rossi chissà perché il contrario, però Vasco Rossi, in uno dei suoi in una pausa dei suoi concerti, sta facendo il tour, ha detto: perché no, la Francia d'altronde ha le centrali nucleari vicine ai confini, noi compriamo energia elettrica anche da loro, spendiamo un sacco di soldi, perciò sì, io sono per il nucleare. Sugli altri referendum invece dice: no, non mi piace sull'acqua, la privatizzazione dell'acqua, ma sul nucleare certo un endorsement un po' inatteso, almeno così riferiscono i vari giornali, quello di Vasco Rossi. Oh, la politica è qui, mentre la politica però, perché è diventata politica, è anche la vicenda Michele Santoro. Michele Santoro non farà più anno zero sulla Rai. Ormai è ufficiale, ieri c'è stata, racconta Marco Mele a pagina 17 del Sole, il divorzio consensuale. Santoro lascia la Rai, è divorzio. Anno zero scompare dai palinsesti, il conduttore è un passo dall'accordo con la 7. Allora, intanto si è vociferato anche della buona uscita di Santoro, secondo tutti i giornali è 2,5 milioni per lasciare la Rai, nell'accordo con il direttore generale Lorenza Lei. Secondo invece Marco Mele del Sole è molto meno. Perché? Perché il valore della transazione è certamente inferiore ai 2,6 milioni di euro, perché altrimenti, scrive Marco Mele, sarebbe stata portata in consiglio di amministrazione prima di essere firmata. Secondo alcune fonti aziendali, in realtà il valore della transazione è attorno al 1,5 milioni di euro, come per qualsiasi altro dirigente Rai con gli anni di anzianità di Santoro. Certo, io ripeto, sono rimasto stupito dalla valanga di aperture, anche, ripeto, il Corriere della Sera, l'Unità, il Manifesto, no, l'Unità per la Verità no, il Manifesto, il Giornale, il Fatto Quotidiano, Libero, che aprono su questa vicenda, la vicenda Santoro. Tra l'altro Mentana, la 7, praticamente in diretta, ha annunciato al TG di la 7 che, insomma, qui alla 7, braccia aperte nei confronti di Santoro. c'è un commento di Aldo Grasso molto duro in prima pagina del Corriere della Sera. Scrive Aldo Grasso: la situazione ha del paradossale, dell'inverosimile. Qualunque network in qualunque parte del mondo non licenzierebbe mai uno come Santoro. Bisogna essere autolesionisti per liquidare un programma che veleggia sui 5 o 6 milioni a puntata, con picchi che superano i 7 milioni e uno share che va oltre il 20%. Tutte le volte che si atteggia a Masaniello, Santoro è insopportabile, ma nessuno può negare che sappia fare bene il suo mestiere, lo sa fare. E come? E quindi Aldo Grasso scrive: è immaginabile, incredibile che la RAI si privi di una risorsa anche dal punto di vista pubblicitario del genere. Come detto, titolano e esultano: Libero, l'incubo è finito, almeno d'ora in poi sarà gratis. Mentre sentite il direttore, l'amministratore delegato di La 7, uno che non ha mai peli sulla lingua, Giovanni Stella, che ora può parlare in maniera diretta e fa capire in maniera esplicita che Santoro approderà alla 7, sapete come lo definisce? Sapete come con che metafora fa capire che Santoro è ormai alla 7? Beh, sentite su Repubblica: i fatti parlano da soli, non crede? Dice Giovanni Stella. Quando una donna si spoglia e si stende sul letto, c'è bisogno di fare altre domande? No. In certe situazioni non si parla, ti togli la giacca, ti sfili la camicia e la smetti di chiacchierare. Insomma, la donna sarebbe Santoro e Giovanni Stella si è tolto la giacca. In primo piano. Come vi ho anticipato, l'apertura del Sole 24 Ore è dedicata agli emendamenti, vi sono 1500 che sono stati presentati al decreto sviluppo sui bonus poteri a Banca Italia. Tutti i dettagli ci sono a pagina 3, li scrive Marco Mobili, li scrive molto bene. Beh, è il classico, o meglio, scrive Marco Mobili, se non è il classico assalto alla diligenza, poco ci manca. 1540 gli emendamenti al decreto sviluppo, secondo un copione che si ripete ormai puntualmente, con la maggioranza con 780 proposte contro le 760 dell'opposizione, che chiede la riscrittura o la modifica delle norme approvate con il decreto legge dal governo. Tra le richieste che più fanno discutere, ritorna al tetto ai bonus dei banchieri e il rafforzamento dei poteri di Banca Italia sulle retribuzioni corrisposte ai manager degli istituti di credito. In arrivo anche che cosa? La riscrittura sul diritto di superficie sulle spiagge, quella che ha fatto già molto discutere. All'inizio si voleva concedere il diritto di superficie per 90 anni sulle spiagge, poi è stato ridotto a 20 anni in una seconda lettura dopo anche i rilievi del capo dello Stato. Ebbene, ora c'è un nuovo emendamento proposto dal leghista Gianluca Pini che propone di alzare da 20 a 50 anni il diritto di superficie sulle spiagge, con una netta distinzione però tra il lido del mare, la battigia, le scogliere, insomma tutto molto dettagliato. Comunque la questione del diritto di superficie sulle spiagge torna alla ribalta con questa proposta, con questo emendamento al decreto legge. C'è anche un altro correzione possibile sulle ganasce fiscali. Le ganasce fiscali solo ai debiti superiori a 2.000 euro, questa è la proposta in un emendamento, e poi insomma tanti altri emendamenti, sono 1.540, i più significativi sono analizzati dal Sole 24 Ore, pagina 3. Dal Sole vi voglio anche segnalare che oggi c'è un'importante pagina di istruzioni dell'uso, per l'uso, per quel che riguarda l'IRAP, che è un qualcosa di un labirinto a volte nel quale ci si addentra con varie difficoltà, perché ci sono vari trattamenti per calcolare l'IRAP di diverso tipo. Ebbene, oggi per quel che riguarda le dichiarazioni del 2011, a pagina 33 troverete tutti i dettagli per capire come calcolare l'IRAP nella maniera più efficace, prima di evitare errori. Allora, noi, come detto nel nostro sondaggio, torniamo a parlare di calcio scommesse. Ebbene, ancora oggi ci sono varie pagine, paginate sui giornali. Tra l'altro il titolo della Gazzetta dello Sport, che ormai dedica le prime 9-10 pagine a questo tema, a dimostrazione che insomma il calcio, soprattutto giocato anche adesso che ci sono le partite della nazionale, arriva in secondo piano. Il titolo della Gazzetta: tre partite sotto esame e si parla di Serie A. Le partite sono Fiorentina-Roma, finita 2-2, Lecce-Cagliari, finita 3-3, e Genoa-Lecce, finita 4-2, a dimostrazione che ci sono anche squadre di Serie A coinvolte, come in questa indagine di Cremona, come già avevamo anticipato ieri, avevano anticipato i giornali. Dalla Roma alla Fiorentina, secondo il Corriere della Sera, sono 4 le gare sospette. I club si arrabbiano. Qualcuno si arrabbia, come il presidente del Genoa, che è stato tirato in ballo anche in queste partite preziosi. Dice: a questo punto va cancellata la responsabilità oggettiva, che è il tema proprio del nostro sondaggio. Noi vi chiediamo: è giusto secondo voi che a pagare siano le società per eventuali errori, anche per eventuali combin e partite vendute da parte di alcuni loro giocatori? Perché vige per il momento la responsabilità oggettiva. Sbaglia un giocatore e la società per la quale il giocatore è tesserato paga con penalizzazioni o anche con retrocessioni. Secondo qualcuno e secondo i presidenti di società è tutto sbagliato. Per esempio, c'è lo sfogo del presidente del Ravenna, al quale hanno arrestato un po' tutto. Hanno indagato anche lui, il vicepresidente, i mister, l'allenatore dei portieri, il direttore sportivo arrestato, l'accusa di partite combinate. Ora il presidente del Ravenna, Gianni Fabbri, dice: a questo punto siamo stati traditi, offesi dal nostro direttore, gli ho messo in mano tutto e ha fatto questo patatrac. A questo punto io vendo per polemica la società, sto trattando, non ne posso più. Insomma, sono il vero tradito della situazione, così dice il presidente del Ravenna. Comunque, ne parleremo alle 8.30. Poi, che dire, e ancora la cronaca si sbizzarrisce su questo psicodramma del batterio killer. Io ricevo chiamate di persone inquietate che mi dicono: che devo fare? Anche persone, amici, mia suocera mi ha chiamato. Io gli ho detto: comportati come sempre, insomma, lava la frutta, lava la verdura, che devo fare? Come se fossi l'espertone. Però insomma, a leggere i giornali non si capisce nulla. Allora, in origine erano i cetrioli la causa di tutto, ovviamente è crollato il mercato del cetriolo. Fino a ieri erano i germogli di soia, e quindi crolla per un giorno i germogli di soia. State tranquilli, i germogli di soia non c'entrano nulla. Batterio killer, la soia assolta, così titola Il Sole 24 Ore a pagina 15. C'è anche un vertice straordinario ora dell'Unione Europea per valutare gli indennizzi agli agricoltori, perché certo intanto loro vedono perdere i loro raccolti e il crollare i loro mercati. Anche per il Corriere: batterio, soia assolta dai test. Insomma, il dato di fatto è che c'è questo batterio. Per quel che riguarda i contagi in Italia, zero, ripeto, zero al momento, e speriamo rimangano zero. In tutta Europa sono 2.333 casi ufficialmente accertati di contagio, statisticamente non è che siano tantissimi, i morti 23 o 24, al momento non si capisce. Sta di fatto che l'unica cosa che si capisce è che non si capisce nulla, nel senso che non si capisce la causa di questo batterio. Non è il cetriolo, non è il germoglio di soia, stiamo a vedere se oggi uscirà qualche altro colpevole che poi verrà scagionato domani. Anche per Repubblica: batterio killer, scagionata la soia. E ora Berlino dice: non mangiate verdura cruda. Ecco, la verdura cruda dalla Germania, dove è partito il contagio, pare che sia la causa, è meglio evitare di mangiarla. Che dire, voglio chiudere solo con una vicenda di cronaca che c'è un po' su tutti i giornali. Corriere, Libero, è il titolo di apertura della Padania, che titola così: una Milano da spavento. I centri sociali alzano il tiro, attacchi a Israele e alle parrocchie. Ecco la nuova città di Pisapia. La vicenda è di una sorta di manifestazione, di festa israeliana, che per 10 giorni, a partire dal 13 giugno, dovrebbe aprirsi. E ci sono dei manifesti per Milano: no all'occupazione israeliana, con tanto del Duomo in sottofondo, per dire va spostata questa festa. Siti di protesta contro le installazioni, la questura dice meglio spostarla al castello, mentre l'ambasciata israeliana dice c'è un accordo con il comune e va rispettato. Potrebbe essere il primo punto nel quale il neosindaco di Milano Pisapia dovrà pronunciarsi, chissà se avrà qualche difficoltà. 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:23 minuti. Voglio salutare il presidente Valerio Onida. Buongiorno, professor. Buongiorno. Presidente emerito della Corte Costituzionale, quella Corte che tra oggi e domani dovrà dare o il via libera definitivo o lo stop al referendum sul nucleare, uno dei quattro quesiti di domenica. Senta, già ieri il neo presidente della Corte, 40, si è espresso personalmente contro la possibilità di fermare questo referendum. È una prassi consolidata? Guardi, penso che questa battuta del Presidente fosse essenzialmente diretta a chiarire quali sono i limiti dell'intervento della Corte in questa fase, perché alcuni giornali hanno scritto che il Governo ha ricorso alla Corte contro la decisione dell'Ufficio Centrale per il referendum. Non è così, cioè l'Ufficio Centrale della Cassazione ha deciso che il quesito andava trasferito sulle nuove norme, sì, perché la sostanza non era, cioè che sopravviveva ancora la sostanza dei vecchi quesiti, quindi che il referendum non moriva, insomma. Allora, quando il quesito cambia anche formalmente, prima del referendum occorre che la Corte Costituzionale si pronunci sulla ammissibilità costituzionale. Ok, ma lei ci sta dicendo che non c'è stato... Questa ammissibilità è riferimento ad altri criteri, al carattere costituzionalmente vincolato o meno, al rapporto con norme internazionali, quindi sono tutti argomenti che mi pare siano fuori dal... Certo, però ci sta dicendo che in realtà non c'è nessun ricorso fatto dal governo. No, non c'è nessun ricorso, c'è la Corte che si deve riunire per dichiarare o meno la ammissibilità del nuovo quesito che è stato formalmente cambiato dalla Corte di Cassazione, che ha trasferito appunto il quesito dalle vecchie norme alle nuove. Mm. Quindi non è stata investita da un ricorso al governo, come era stato scritto erroneamente nei giorni scorsi dai giornali. È una prassi d'ufficio che la Corte Costituzionale si pronunci, insomma. Soltanto che in quella sede il governo, attraverso la Corte dello Stato, può essere presente, può dire la sua, ecco, ma come sempre, non è un ricorso. Certo. Senta, lei già però settimana scorsa, quando la Corte di Cassazione si era pronunciata dicendo che il referendum sul nucleare si può fare nonostante ci sia stato un decreto del governo che intendeva in qualche modo sospenderlo, si era detto stupito, credo, in un'intervista. Cioè lei ha detto... Personalmente mi sembrava un pochino difficile trasferire il quesito, perché mi sembrava che il contenuto delle norme nuove in realtà conservasse molto poco delle vecchie norme, siccome il trasferimento avviene quando appunto rimane il contenuto sostanziale. Se il contenuto sostanziale non cambia, anche se le norme sono nuove, il referendum si fa. Se invece il contenuto sostanziale cambia significativamente, il referendum non si fa più. In questo caso a me pareva che le nuove norme avessero un contenuto abbastanza distante da quello delle prime, anche se è vero che questo decreto legge è stato voluto, diciamo, proprio per evitare il referendum, non perché il governo e il Parlamento hanno ritenuto di volere rinunciare al programma nucleare, abbiano cambiato idea, non è così, cioè è una mossa un po', devo dire, strumentale questa di fare l'abrogazione e accompagnarla con delle norme generiche che dicono si studierà, si farà un programma. Allora, questa è la ragione che aveva portato me, anche altri, a ritenere difficile il trasferimento. Invece evidentemente l'Ufficio Centrale per il Referendum ha ritenuto che la sostanza non fosse cambiata, quindi, anche tenendo conto di queste intenzioni abbastanza trasparenti, quindi, diciamo, dei proponenti. È presumibile, anche se decideranno tra oggi e domani, che il via libera ci sarà e che ci sarà il referendum. Sì, perché appunto la Corte Costituzionale si deve pronunciare esclusivamente sugli aspetti di ammissibilità costituzionale del referendum, e non vedo quali ragioni potrebbero ostare all'ammissibilità costituzionale di questo nuovo quesito. Senta, ovviamente c'è il tran tran che ritorna anche della politicizzazione dei 15 giudici della Corte Costituzionale. Insomma, purtroppo è una favola che ritorna essenzialmente perché purtroppo dal Presidente del Consiglio in giù viene ripetuto, martellata questa idea del tutto fuori dalla realtà, che ci sia una Corte Costituzionale con prevalenza di sinistra, politicizzata. Se si va poi a guardare in realtà quello che avviene, le decisioni della Corte, si leggono le motivazioni, ci si accorge che non è così, ma è purtroppo qualcosa che, a furia di essere ripetuto nelle televisioni dal Presidente del Consiglio, sembra quasi essere entrato nel discorso comune. Non è così, sono favole, sono proprie favole. Senta, professore, nel ringraziarla e nel salutarla, ma non è che lei entra nella giunta a Pisapia, no? Perché? No, perché lei ha fatto le primarie anche del PD, insomma. Non ho avuto nessuna richiesta di offerta di questo genere, ma non è nelle mie prospettive. Ce lo può assicurare, sì, non è stato contattato, no. No, no, no. buono. Allora. Va bene, intanto la ringrazio per essere stato con noi. Grazie, grazie a Valerio Nida, che è stato presidente della Corte Costituzionale. Insomma, intanto ci ha chiarito questa cosa importante, che in realtà non c'è alcun ricorso fatto dal governo sul quale si dovrà pronunciare la Corte Costituzionale, ma una semplice presenza ovviamente dell'avvocatura di Stato che porterà avanti le proprie ragioni. La pronuncia della Corte Costituzionale definitiva sul referendum è una prassi. Ci sarà tra oggi o forse domani la pronuncia definitiva della Corte Costituzionale, che dovrà decidere a questo punto se questo referendum sul nucleare si farà oppure no. 24 mattino. Allora, torniamo a parlare del calcio scommesse oggi, o del presunto calcio scommesse del nostro sondaggio. Particolare attenzione alla questione della responsabilità oggettiva. Quello che vi chiediamo oggi: è giusto che a pagare per eventuali errori di giocatori siano le società? Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? E devo dire che il 62% dei nostri ascoltatori per ora su Radio24.it ti dicono di sì. 800240024, se volete intervenire, cari tifosi di calcio, eccoci qua. Ne vogliamo discutere con il vice direttore della Gazzetta dello Sport, Franco Arturi, che saluto. Buongiorno Arturi. Buongiorno a tutti. Saluto anche Damiano Tommasi, che è il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori. Tommasi, buongiorno. Buongiorno. E anche Daniele Belotti, che è l'assessore, è l'assessore regionale in Lombardia, ma qui Belotti l'abbiamo chiamata in veste di altro, insomma, di grande tifoso dell'Atalanta. Eccoci. Grazie, qua. Buongiorno. Buongiorno Belotti. Senta Tommasi, vorrei intanto iniziare da lei, perché il presidente del Genoa, Preziosi, tra l'altro notizia anche oggi sulla Gazzetta dello Sport, che titola tre partite sotto esame, sono tre partite di Serie A, Fiorentina-Roma, Lecce-Cagliari, Genoa-Lecce, sotto esame, mica vuol dire, però su questo ci si vorrà concentrare. Presidente Preziosi del Genoa dice: l'associazione calciatori ci aiuti, perché anche questa storia della responsabilità oggettiva, cioè che nel caso di eventuali mele marce debbano pagare le società e anche i tifosi, non si capisce. Che dice Tommasi? Ma, innanzitutto, che stiamo analizzando situazioni senza ben sapere, insomma, come sono andate le cose. Sicuramente ci saranno casi in cui la società è coinvolta e casi in cui solo il giocatore all'insaputa della società ha operato. Sicuramente è una cosa da valutare e anche capire, insomma, se è stato fatto il possibile per evitare queste cose. Però è un tema talmente delicato e casi alcuni abbastanza differenti tra loro, che è difficile, insomma, fare. Ma in che cosa secondo lei l'associazione calciatori potrebbe aiutare le società, cioè identificare, non so, quei giocatori, magari vedere anche nelle serie minori dove giocatori che guadagnano meno, giocatori che sono più a rischio anche di essere contattati dalla criminalità? Sicuramente la sensibilizzazione va fatta da più parti, anche dalla parte nostra, come è stato fatto anche negli anni scorsi. Forse mettere un po' di più in guardia i giocatori sul fatto, insomma, pur magari operando nella legalità, perché le scommesse, si sta parlando di scommesse legali, dal punto di vista sportivo invece non è permesso, quindi aumentando il livello di sensibilizzazione. Ma credo che in questo, insomma, le immagini degli arresti, dei fermi, ci danno una grossa mano nel mettere in guardia, insomma, danno una mano i nostri associati. Dice chi fa queste cose rischia di finire così. No, queste immagini sono sicuramente molto d'impatto e fanno preoccupare. Questo certamente. Io non so se Franco Arturi, tra l'altro la questione del mondo delle scommesse, qualcun altro, per esempio il presidente della Lega Beretta, dice forse questo è proprio il problema delle scommesse legali, che da quando è prolificato è chiaro che ha comportato anche l'interesse della criminalità organizzata su questo. Ma bisogna pensare di tornare a un mondo in cui non si possa neanche scommettere sulle partite? Guardi, le scommesse sono come il vino. Non c'è nessuna persona dotata di buon senso che possa proporre di abolire il vino, che fa parte della cultura della civiltà umana da millenni, poiché esiste un problema di etilismo. Sulle scommesse si può fare un discorso identico. A parte il fatto che nel 1980, cioè quasi 30 anni fa, quando non esisteva nemmeno all'orizzonte la possibilità che in Italia si potesse scommettere legalmente, 20 giocatori, fra cui tutti i migliori attaccanti italiani, una grande società come il Milan Filimbi, e quei 20 giocatori furono condannati con pene dai 6 anni in giù. Questo avveniva 30 anni fa, quando le scommesse legali non esistevano. Questo significa che il problema non è la scommessa, che è un episodio di partecipazione profondamente legato alla cultura, non semplicemente, non solo italiana, da secoli. Il problema è ben altro, il problema è un'etica di comportamento, il problema sono mancati controlli, il problema è quello di legalità. No. Un problema di legalità esiste nel paese, esiste nello sport, esiste nel calcio. C'è una contiguità fra episodi di slealtà, mancanza di fair play, illegalità dentro gli stadi, che si allarga a persone che sono disponibili ad assumere comportamenti criminaloidi, no, che diventano anche tentativi, a volte riusciti, a volte no, di truccare le partite e quindi di fare illeciti guadagni. Cioè, è come diceva ieri Gianni Rivera in un'intervista al Corriere, a dire: noi eravamo dei calciatori, l'idea che appare da questo calcio scommessa che ci siano dei giocatori che vogliono arraffare il più possibile in nome dell'ingordigia, perché magari sono anche alla fine della carriera e c'è un piatto dal quale vogliono mangiare il più possibile perché poi dopo, insomma, la carriera di uno sportivo dura quello che dura, no? Questo è il concetto, Arturi, questa è la mancanza di etica a cui faceva riferimento? Certamente, che si ravvisa nel mondo del calcio e purtroppo in tanti altri ambienti della vita nazionale e non soltanto in quella nazionale. Bisogna mettere in atto delle politiche, una mobilitazione di carattere etico a tutti i livelli, sì, per arrivare anche a incidere su questo problema. Allora, su questo Daniele Belotti, come ha detto, è assessore regionale a Lombardia della Lega, ma spesso lo si vede anche con la maglia dell'Atalanta. Certo, lo si vede, immagino, in tutte le partite dell'Atalanta. Mi piacerebbe vedere fossi in campo con la maglia Atalanta, però purtroppo la qualità dei piedi è quella che è. Vabbè, insomma. Allora, le chiedo questo: lei ha minacciato nel senso anche mobilitazioni di piazza, cioè l'Atalanta, sappiamo, è una delle squadre che è citate anche con il suo capitano Cristiano Doni, che si è difeso dicendo: sono tutti millantatori, non c'entro nulla, eccetera. E però lei ha detto: guardate che qui facciamo una mobilitazione, andiamo in piazza. Perché bisognerebbe andare in piazza? Se c'è qualcosa di provato e che verrà provato, non è giusto che l'Atalanta anche, e glielo dico, tremi, non venga più promossa in Serie A? No, allora, precisiamo un attimo che non è assolutamente una minaccia e non è una iniziativa esclusivamente mia, ma nasce dai tifosi in modo spontaneo. Cos'è che chiedono i tifosi con questa mobilitazione di giovedì sera che ci sarà in centro a Bergamo? Che non ci sia un processo con una sentenza già scritta dai giornali e dalle TV nazionali. Qui siamo di fronte, per quanto riguarda l'Atalanta, per quello che si è appurato finora, ha delle prove molto labili. Si parla di intercettazioni dove uno degli scommettitori fa riferimento a un amico di Doni, che riferirebbe che Doni sarebbe disponibile a partecipare alla Combin. Siamo di fronte a una informazione di fonti investigative per cui si dice che la situazione Atalanta sarebbe aggravata, ma non si capisce né perché né per come. Però, a dire, con questi elementi molto leggeri, ci sono stati ripetuti titoli e servizi in televisione dove l'Atalanta viene, viene data come indagata. Sì, insomma, non viene indagata, vengono utilizzati veramente titoli e toni da condanna già scritta. E visto che la giustizia sportiva è molto più veloce e molto meno intransigente rispetto a quella penale, nel senso che bastano anche prove molto più leggere per poter condannare, quello che sia la paura che sia a Bergamo è che l'Atalanta possa diventare il capro espiatorio. Ma perché? Perché ce la si dovrebbe avere con l'Atalanta piuttosto che con altre società? Cioè, siete così scomodi? Bisognerebbe chiederlo al vice direttore della Gazzetta dello Sport, ad esempio, che è uno dei giornali soprattutto la parte online, che ha utilizzato i titoli più pesanti nei confronti della Trump. Vabbè, adesso risponderà Arturi. Prima però vorrei chiedere, Arturi poi risponderà alla questione del perché ce l'avete con l'Atalanta alla Gazzetta dello Sport. Però vorrei chiedere a Damiano Tommasi, che tutti ricordano è stato gli appassionati sportivi, anche un grande giocatore che ha fatto sempre dell'esempio di correttezza e sportività, uno dei suoi punti di forza, oltre che le capacità calcistiche. Senta, Tommasi, qui la questione è che, vedendo 30 anni fa, poi Calciopoli qualche anno fa, adesso questo calcio scommesse, vedremo. Insomma, l'idea, la sensazione è che periodicamente, come dire, non finiscano mai queste cose. Ecco, lei da calciatore, c'è mai avuto la sensazione anche che qualche partita, non so, di fine stagione fosse, diciamo, combinato, comunque ci fosse poco impegno, scarso impegno in campo da parte dei giocatori? Ma qua c'è un problema che è diverso, nel senso che non è solo sportivo il problema, anzi col volume d'affari che muovono le scommesse, e le scommesse online ancora di più, qua non si sta più parlando di una partita che ha un valore sportivo e quindi per la classifica, ci può stare che due squadre si ritrovino a giocare una partita dove il pareggio va bene a tutte e due, quindi è difficile poi competere per la vittoria o che sia una gara diversa da quella che vediamo spesso quando il pareggio va bene a tutte e due le squadre, a tutte e due le tifoserie per la classifica. Qua il problema è che il pareggio non è più solo per la classifica, è per qualcos'altro. Insomma, troppi soldi, insomma, troppi soldi. Chi mi ha preceduto parlava del vino paragonato alle scommesse, è vero, concordo in tutto quello che è stato detto, ma è anche vero che il vino per chi guida non va preso perché può diventare pericoloso. E allora io mi domando se scommettere su un evento dove la volontà dell'uomo può incidere sul risultato, e come ho detto prima, insomma, questo evento poi muove milioni di euro, quanto dobbiamo lavorare sull'etica dei comportamenti per arrivare ad una coscienza che riesca a respingere. Certo, perché se laddove chi scommette è per esempio un giocatore, uno che poi va in campo e può decidere la partita, certo che il problema c'è. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Le 8:48 minuti, allora Franco Arturi, vice direttore della Gazzetta. Qui Belotti dice che ce l'avete con l'Atalanta e contribuite a questa sentenza già scritta. Beh, ma siamo abituati a questi rilievi, ci sono milioni di persone che ritengono che ce l'abbiamo con la Juventus, a suo tempo l'avevamo col Milan, oggi probabilmente i tifosi di Fiorentina, Roma, Lecce, Cagliari, Genoa, che trovano le loro partite in prima pagina sotto indagine, tireranno queste conclusioni, o il Ravenna che viene dato per spacciato, probabilmente ci odieranno, il Padova implicato, sono decine le società, se potessimo e volessimo odiarle tutte saremmo da immediato ricovero in case di cura, delle quali dovrebbero buttare via le chiavi, dal momento che gli appassionati sono i nostri lettori. Sì. Non facciamo altro che seguire le indagini dalle quali filtrano delle affermazioni di persone qualificate, poliziotti, inquirenti, che vengono pubblicate non dalla Gazzetta dello Sport soltanto, un po' da tutti i giornali. No, ma infatti Belotti, ma perché questa idea della sentenza già scritta? Cioè, voglio dire, se l'Atalanta è stata tirata in ballo è perché forse ci sono delle informative al riguardo. Ripeto, è una questione di... L'Atalanta è sulla ribalta di questo caso dal primo momento. Certo, paghiamo il fatto che fino a ieri era la società più in evidenza tra quelle implicate. Però quello che vogliono fare i tifosi, oltre a questa specie di risposta alla gogna mediatica che è, sì, in cui è in corso l'Atalanta, è anche quella di dimostrare un gesto d'affetto e d'amore verso una società che ci ha dato tanto. Ma dica un po', se dovesse... Solo una precisazione. Non è una questione di vittimismo, non è una questione di voler chiedere un'immunità. Se qualcuno ha sbagliato nell'Atalanta, siamo paghi. Ma qui c'è la responsabilità oggettiva, bravo, questo è il problema. Questo è un aspetto che però io sono contrario rispetto a quel 62% del sondaggio che avete... Sì. Perché qui si parla di danno della beffa e qui ci sono società che hanno investito tanto e che si trovano danneggiate dai, dai propri dipendenti, ma soprattutto ci sono dei tifosi che sono stati traditi. E questo è il problema. Se le chiedo una domanda diretta, se mai l'Atalanta dovesse vedere la promozione in Serie A cancellata, che succede a Bergamo? No, Bergamo non è... Certo, deve essere fatta, deve, questa sentenza deve basarsi su prove certe. No, certo, no. Mettiamo il caso che ci siano prove certe. Il problema della giustizia sportiva è che le prove certe possono anche mancare. Basta anche solo la supposizione per condannare a livello sportivo. Beh, e in questo caso incide molto l'aspetto mediatico, perché si chiedono già pene esemplari e chi le paga queste pene esemplari? Le paga secondo la responsabilità oggettiva le società. Comunque sentiamo due ascoltatori, se sono rapidi, grazie. Paolo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Signor Milan, e buongiorno ai suoi ospiti. Molto velocemente volevo suggerire alle società sportive, in quanto aziende con dipendenti, di informarsi sulla legge 231, che è una legge che regolamenta molto chiaramente, dà indicazioni alle aziende su come muoversi per quanto riguarda l'etica comportamentale dei dipendenti e tutela e sgrava anche in buona parte le responsabilità oggettive, quindi non sto qui a elencarle perché non è sì, che quella sul rischio imprenditoriale, vabbè. Esatto. E secondo me può essere utile anche alle società sportive. Vabbè, ma lì c'è la responsabilità oggettiva però, cioè se un tesserato di una società Pinco Pallino commette un illecito ne risponde la società, è un principio discutibile, sul quale si può discutere, però fin tanto che c'è. Giovanni dalla provincia di Catanzaro, buongiorno. Buongiorno, io sono contrario alla responsabilità oggettiva perché si va a punire ingiustamente una società, degli imprenditori che hanno investito un sacco di soldi e soprattutto i tifosi che fanno i sacrifici enormi. Io mi sono trovato ai festeggiamenti dell'Atalanta a Bergamo, il giorno in cui hanno festeggiato, ho visto veramente una città in festa. Io sono calabrese, quindi per me è stato molto bello vedere tutta la città coinvolta in quei festeggiamenti, e poi per un personaggio che se ha sbagliato deve pagare severamente, però non è giusto penalizzare una città, una regione e tutti quei tifosi che sono, siamo gli unici che facciamo i sacrifici e poi per l'errore di una persona ci dobbiamo andare di mezzo. Eventuale errore. Beh, interessante questo. Franco Arturi, che ne pensa? Cioè la responsabilità oggettiva, effettivamente, dare allora, in capo la responsabilità alle società anche per un errore eventuale di un giocatore? Com'è? Allora, non esiste un tariffario di pene automatico, per cui se faccio volutamente un caso paradossale e intanto sgombriamo il campo, stiamo parlando in generale e non dell'Atalanta in particolare, se dicevo il fisioterapista di una società viene implicato in un gioco sporco legato alle scommesse, quella società viene retrocessa in Serie B. Certamente non è così. Certo. Nel caso di responsabilità oggettiva che produca una pena, come viene denominata, afflittiva, occorrono diversi tesserati che insieme all'interno della società abbiano concorso a qualche cosa, a un illecito particolarmente grave. Allora, se in ipotesi 4 o 5 giocatori della mia squadra hanno venduto una partita e ci sono riusciti e su questo hanno anche fatto dei guadagni illeciti sulle scommesse, Perché deve pagare la squadra? Cioè la società e i tifosi anche, quindi? Perché se io sono un dirigente della mia squadra e non mi accorgo che da anni c'è un gruppo di malamitosi all'interno della mia società, se non ho attivato un percorso etico e un codice etico, significa che non sono in grado di dirigere alcunché, altro che una società sportiva. Se infine, perché c'è anche una diciamo così, un'attenzione che deve essere posta a queste cose nei confronti da parte dei tifosi, ecco, se i tifosi si accontentano delle vittorie ad ogni costo e non partecipano alla vita etica della società, allora il discorso si fa chiaro. È giusto che paghino anche loro. Io qui mi devo fermare, vedremo gli sviluppi di questa inchiesta. Grazie al vice direttore della Gazzetta Franco Arturi, a Damiano Tommasi che è presidente dell'Associazione Italiana Calciatori e all'assessore regionale Lombardo e tifoso dell'Atalanta Daniele Belotti. Giovedì dunque l'Atalanta, gli atalantini, i tifosi in piazza a Bergamo. Ci fermiamo con Alessandro Longoni e Elisabetta Benedetta Fusconi in redazione e Paolo Corleoni in regia. Che dire, dandovi l'appuntamento domani alle 7.20 e di andare su Facebook, la nostra pagina 24 Mattino. Dai, iscrivetevi sempre di più, che siamo sempre una massa che fa massa, per l'appunto. Che dire, vedo Oscar Giannino, è arrivato, e allora a lui la linea. A domani.